Puglia, già, dove sei arrivato? Sei mezzo a 8. K, va benissimo allora. Antonio! E anche da me, anche da me. Come mi senti lì in quella zona? Dove sei arrivato? Sono arrivato al Ferrubicchio, dai. Già ti ascolto, poi troverò la zona d'ombra, che è l'arena del sole, e poi di nuovo vi ascolto. Tanto lo so già, perché questi viaggi li ho già fatti. Adesso sto vicino a E capa lì, Antonio, riserva, l'ho sentito io a Platamona poco fa. Qui non dovrei avere problemi lì, Comunque corremmo in zona, capito? Perché si accendono luci, lampadine, di tutto. E quindi è un casino. Vai Antonio, mi senti bene? Sto usando un altro apparecchio. Una bomba sì, c'è una bomba sì qua, Capa. Ma comunque ti stavo dicendo già, non c'è problema. Cavolo, fino adesso sei sempre, ti sento sempre, ma c'era Antonio Riserva oggi a Platamona e mi sentiva. Non lo so come mi ascoltate perché qua sono ancora dormendo. 7. Qua sei Santiago 4, sì, ma già ti sento sempre però. Con quello già pompa già. Scappa. Chi è che sta chiamando Antonio? Avanti! Tu era creduto che era già Mendi, veda? C'è che QRM che c'è, porca miseria! Ah, di velocità, no? Io sono 10 watt. Ricordati che Antonio Riserva ti copiava però attaccato. Quando staccavi sparivi, non arrivavi da liscio. Vabbè, io ho i miei problemi, lo sai. Buonasera a tutti, baci, abbracci, nuovi e squisitezze. Io ve lo porto nel cane e ci sentiamo. Ciao Gianni, ben ascoltato, cappa. Baci, abbracci e slinguate. Baci, abbracci, nuovi e squisitezze. Ok, quindi mangiate quello che volete. Oia. Eia. Dai, ciao Gianni, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi se coincide che ero sul 20, non facevo alcuna prova, dai. Riprendi Gianni, fai girare tu, ci sentiamo più tardi. Oh, chi era quel ragazzo col capo? Ci va bene? Danilo, è già un vero io segnale, faccio i PCT. Sì, tra 7 e 8 con questo B, ottimo segnale. Già, lo sistemi da qualche parte, lo metti quando ti sposti, tu hai già detto, roba volante, più o meno sai che esci più forte, capito? Però l'ultimo segnale, non c'è problema. Ma qui sentiamo più tardi che se coincide con la porta del cane, ciao. Eia, a da voi, dai. Io avevo lasciato acceso qua, avevo fatto solo un passaggio breve di rotazione in canale, avevo sentito questo ragazzo, avevo capito che stavate provando quel tipo di apparato e usciva bene, però non lo riconoscevo di nominativo, capito? E poi sono ripassato qua e ho sentito Antonio che chiamava Gianni. Ma c'è bene, un 140, normalissimo, mai toccato, quindi già va bene, va. Ho un po' messo sotto i ferri per conto mio, però io non ne faccio a nessuno, mi faccio i miei e basta perché non voglio avere problemi, Marco, capito? Se sbaglio è roba mia, quindi mi assumo la mia responsabilità, se sbagli sulla cosa degli altri poi ci sono lamentele e casini, quindi ti metto a consulta il tuo amico e te la fai fare da lui. Dai, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi. Sto andando bene Marco, sì, sempre con la radio che c'ho aperta. Ma si era capito il perché del coperchio aperto e chiuso dei picchi negativi? No, gliel'ho rimesso, l'ho richiuso, le viti non le ho messe perché domani mi è mancato lo specchio, l'ho tutto finito, domani le do una pulita generale, un ritocco generale finale a tutti i potenziometri, a tutte le cose e poi le metto le viti. Per il momento gli ho messo il coperchio senza le viti e non lo sto più facendo, vai. Ehi, la modulazione sì, va bene, è un po' al limite, secondo me è un po' al limite, proprio al limite del debordamento, come dire, però questo è un altro apparecchio, questo è il 7009, quindi ogni apparecchio ha una recezione diversa, è così, dai. Ho sentito un'ora, non so chi sia, vabbè, lo lascio a voi, vabbè, la mia voce è questa, Marco, ce l'ho. Neanche 1,5 il Mickey Gay come uso la mia, però ho fatto delle sicuramente l'ho tirata ed è per quello che, però la mia voce non è come quella del proprietario, perciò la lascio stare così. Beh, ci sentiamo e ti rilancio a te, fai girare, c'è un uomo, non so chi sia, buonasera anche a lui, io sto chiudendo, ciao. Ciao, ci sentiamo, avanti Ola, avanti che vuole entrare. Anni, dove sei arrivato? Io non lo sento più, porca miseria, il cuore elettrico, una cosa bestiale. Io non riesco a tirarlo più fuori. Gianni, se mi copi, ti ho copiato, Santiago 5 e mezzo, Santiago 5 e mezzo. Non è differenza, ma qui, cioè, tu mi hai detto Santiago 5 e mezzo, qua ha fatto picchi di quasi 9. Hai capito tanto cosa vuol dire la posizione? Quasi 9, Gianni, vai, vado a portare il cane a dopo, riprendi anche tu, bombolo. Io un giorno tu vieni qua, io ti faccio vedere il palazzo e mi dai ragione poi. Io purtroppo sono dentro un fosso, sono. E tu mi dirai, cazzo, hai ragione. Sei ruzzato a giù, tu che sei ruzzato del palazzo di sopra, è stato in gatta, avevi facciato il culo a tutti. O sono stata la stazione. Qua io sono in un punto un po' strano, sono. Tu vieni qua, io ti faccio vedere e mi dirai, Antonio aveva ragione. Ma rimane sempre il fatto che tu puoi fare auguri a tutti, ma non a me. Adesso mette i due lineari in parallelo, mi. I lineari in parallelo. Ti fa le scarpe, ti fa. È forte Antonio, cazzo, è forte, è forte. Vai Gianni. Sta parlando. No, non sento neanche io. Gianni? Magari sta guidando. Sai cosa mi dispiace di questa posizione? Che l'antenna vede la zona industriale di Porto Torres, cioè è a portata ottica, però tutto ciò che c'è a destra, Porto Torres città compreso, è coperto dai palazzi. Io ho tutta quella zona lì coperta. Invece da zona industriale di Porto Torres a, verso sinistra è tutto aperto. Sintino, Alghero, montagne permettendo. Peccato, avrei voluto quella zona lì libera. Vediamo se ti ascolta anche io, bomba, lo senti anche tu? Certo che lo sento, Gianni! È logico che arrivo, ti sento. Non ti sento forte, però ti sento. Sì, quasi 5, sì. Vabbè, qua ci sono le lineette, ci sono. Capito già, ci sono le lineette, non è smitter analogico, però ti sento, cavolo, non c'è problema. Qua 7 modulato, 7 modulato. Gianni, Santiago 9 pieno, radio 5. Anto, c'è un rumore di alternata sotto però. Lo so, Guia, è quel cazzo di massa a me girando le balle. E non ce l'avevi prima, come mai? Non lo so, la massa che invece si è attaccata, non lo so, non fa niente, dai. Secondo me non sono filtrati bene quegli alimentatori da computer, non per la radiofrequenza. Ottimo, ottimo, sempre, Gianni, non ho problemi. Ottimo, 5 perfetta la modulazione, dai, va bene. E dopo signori, sentiamo. Eia Claudio, dopo. Gianni, sì, adesso va bene. Sicuramente non era innestato bene, dai, tutto lì. Avanti chi vuole entrare. Ho sentito un fischio a 9-9-10. Chi è? Tu puoi già frusciare. L'ho sentito anch'io mentre stavo parlando a Gianni. Ho detto, ma sono tutti timidi, stasera timidi, portantine, fischiano, ola, però non entrano. Gianni, come mi senti a me con questa radio? Questa non è la mia, come mi ascolti bene? Io, sì. Gianni, ho detto, come mi ascolti con questa radio? A chi stavi dicendo sì, Marco? Cosa? Non è scambia, a chi stavi dicendo sì, Marco? Boh. Ho detto sì, no, non lo so. Ora ci avevo dovendo, senti, non trovi che te ne pitturare, mi. Poi non l'ho fatto nulla, mi, cosa si dice? Ne devo rompere i balle, vedi, no? Non so, avevamo parlato quando sto parlando, perché è una cosa che a me mi dà fastidio, Io non sono avuto da nessuno, non voglio essere sovramodulato. Stiamo giocando, giochiamo, ma non fatemi incazzare, perché sennò cambiamo le cose. C'è uno ogni tanto che schiaccia la porta, perché è che vuole entrare? Cazzigado, un cazzigado, entra se devi entrare, se no basta, finito il discorso, io non c'entro niente, non ho fatto niente. Ehi, Anto, non puoi tirare, non c'è bisogno di, non è successo niente, a me mi ha fastidio, quando sto parlando forse qualcuno che non che c'ha il volume basso, che ne so io. No, certo, si vuole fischiare, io ce l'ho altro radio acceso, me ne accorgo. No, ma prima ho detto sì, forse stavo rispondendo a Gianni del mic, come si dice, le microfonine esterno. Ho detto sicuramente era un falso contatto, sì, avrò detto una cosa del genere. Qua non ha, Antonio non ha detto niente, ma io non sento nessuno sotto, assolutamente. Come fai a sentirlo tu? L'ho sentito io già un pochettino. Già ho sentito. Un caffingardo, cosa vuoi ti dica? Entra, se entrare basta, non sta a rompere palle. Punto. Ascolta, è pronto a mangiare, dai, ce la risentiamo dopo. Ciao Gianni, se mi senti da Platamona, dai. Salutoni a tutti. Tutto, non c'è il microfono a tavolo. Vabbè, quel lì che non ne ho più, c'ho il DM1000, c'ho. E se ci avevi un tono più 3, un tono più 3B, un MB più 5, non c'è più niente. Quello era di mio padre, non è roba mia, no. Se non tono più 3, ti usciva un tono più 3. E la vetiglia. Va bene, va. Dai che mi sta chiamando Sara che è pronta a mangiare, no? Che... Dai, ce la risentiamo dopo, se... Se mangia il duca, alle 7:20. Cioè, quando pranzo io cena lui. E a Milano mangia a quest'ora, alle 7:30, dai. Ci sentiamo dopo, quanto... intanto dopo Giovetti, dai. Vieni qui, ti lascio con Gianni, io vado a portare il cane, così mi libero, eh. Ok, a dopo. Ehi, a da voi. Antonio, buona cena. Boh, io sento solo QRM. Gianni, se stai parlando, zero qua. Prova un po'. Il balai sta andando. Allora Gianni, qua percepisco il segnale Santiago 5, ma la radio è zero. Praticamente il QRM elettrico ti elimina la modulazione, dai, non ti ascolto più. Dai, ci sentiamo, caso me lascio a monitor. Vai tu Claudio. Non ti sento Marco, vai, io mi stavo cambiando, ma ti sento Gianni, forse solo io ti sento. Santiago 7, sì, Santiago 7. Aspetta, quale balai? Balai lontana o balai? Ah no, chiesetta. Gianni, quale chiesa? Balai lontana o l'altra? Non so, che chiesetta sei già? Quella vicino o lontana? Ecco, balai lontano, vai, dove sono i parcheggi, quelli grandi. Va bene, qua arrivi, Santiago 7, non c'è problema, vai. Usando, l'omologato ha detto. No, perché lì è anche bello aperto, mi dovrebbe arrivare più forte. E che antenna c'ha? Gianni, che antenna hai? Niente, non lo copio, dai. La Turbo 2001 ti ho detto. Ah, Turbo 2001, forse il portatile che dà meno watt, magari non ne dà 4 o 5 pieni, ne darà un po' di meno, dai, va bene. Ciao. Ehi già, ho capito solo ciao, dai, sentiamo. Ho provato a mettere il noise blanker e non serve a una chicchia, dai, niente da fare. Ci sentiamo già, buona serata. Ciao Gianni, a più tardi, ciao. Francesco, sei tu? Sì, Roger, ci sono io, buonasera, sono tu praticamente. Ok, come se ti sto riparando ora, non fare la radio in diretta, dammi un controllino. Buonasera, ben sentito, ok, a te cambio. Io, ciao Francesco, ben sentito, bene? Scusa che spengo l'autoascolto. No, mi sembrava il segnale tuo, t'avevo sentito per un istante sul 20 prima carrellando. Allora il segnale è 7:30, la radio di per sé è buona, purtroppo io qua in città ho un QRM elettrico, causa disturbi elettrici locali. Per il resto, ripeto, 7:30 radio 5. Il tuo segnale diciamo consueto, dai, quando sei abbastanza buono di. Non liscio forse, magari ci avrai qualcosa sotto. E appunto c'è qualcosa sotto, sì, toccando il B300 qui della Terra 5. Sono in quarta marcia, non ho provato ancora sulla sesta perché quel cavolo di antenna non convince molto, ma niente, disturbi elettrici sono un po'. Sì, qua c'erano varie persone, poi Claudio è andato via, Antonio è andato a mangiare, Gianni è arrivato a Pro Torres, credo, e stava provando l'impianto veicolare, e quindi fino a Barai l'ho sentito, poi però era troppo basso. Sì, qua va bene. Dal fischio quasi ti stavo riconoscendo, non ero sicuro, io ho tentato, ho detto magari se o è lui o non è lui, proviamo. Allora, questo è uno smitter a cristalli liquidi, no, io dico a LED ma è cristalli liquidi. Santiago 6 liscio, però appunto peggiora per via del corremme, attaccato 7,5. Energy, sì, ce l'ho anch'io, mi pare sia adatta per 500 watt picco picco, quello vuol dire mano laterale, io non mi fiderei a darne nemmeno la metà, secondo me un terzo continui, cioè in AM un terzo di watt, tipo 150, 170, una cosa del genere, ma non mi fiderei nemmeno ad andare oltre, lo sai. Non tanto, sai qual è il punto debole di quell'antenna? La bobina, c'è una bobina di antenna veicolare, capito? Non è come la mantova che c'ha quel bestione di spirale, capito? Bella spessa, quello, la bobina dell'Energy è tipo quell'antenna che ho io da macchina ed è data per 450 watt. Poi c'è le saldature, poi c'è quella piccola piastrina che collega una parte dello stilo alla saldatura e quella è quella che parte per prima, la più sottile è quella e quindi bisogna andarci piano con la Energy. Naturalmente poi chi vuole altre potenze si piglia la Mantova, si piglia la Sirio Blizzard, la Sirio 2000, come si chiama quell'altra? L'827 eccetera, la Game Master eccetera, roba che tiene watt, anche kilowatt. L'M 2016, qual è quella con 16 radiali? Sì, me le ricordo. Non so nemmeno se siano più in produzione quelle antenne lì. E ogni tanto cambiano. C'era la Super LEM tanti anni fa. Me la ricordo, Super LEM. E tipo Mantova, tutte simili sono un po', dai. Conforme camion da Osilo. Ehi, Luca, amica, che ci sei? Fai la prova. È entrato Luca. Prova con uranio a vedere quanto arrivi. Beh, positivo, là. Buonasera, uranio, mi ascolti? Luca qua, zona Latte Dolce, Sassari, avanti. Sta arrivando segnale 4-5, segnale 4-5, radio 4, dai, ti ascolto bene, ti ascolto abbastanza bene, non sei 5 di radio, però ti ascolto, dai. Niente, dai, sono entrato Marco e vado a cenare, che tra un po' mi devo prendere il tram, ci sentiamo magari dopo da casa, se ci siete, dai. A dopo, riprendi Marco. Ehi, Luca, in tram, ma non mi ricordo se te l'avevo chiesto, ma non ce l'hai più il motorino, come si chiamava, quello che hai visto, lo Zip? Sì, ce l'ho, ma non lo uso, c'ho freddo, no, poi lo Zip no, non ne uso, Marco. Lo uso solo quando mi fa bisogno e basta, d'estate soprattutto, da adesso no. Dai, ci sentiamo dopo. Ciao Lu, buona cena, buon tutto, dai. Ehi, bene, bene. E quindi vedi, arrivi anche lì tranquillamente, nessun problema. Se la metti ancora più in alto è meglio ancora. Se riesci a metterla sul tetto è... hai fatto tombola Lu. Salutoni Uranio, buonasera. Buonasera, salutoni, ricambiati anche per te, ok? Buonasera. Antonio Bombolo da questa parte, mi senti? Sì, Roger, Antonio, ti sento benissimo, ti sento bene, sì, ok. Geniale, l'ho guardato bene, ma ti radio sei una radio di 3K, ok. Geniale, boh, forse sì, o 7, non lo so, ma prova a riprendere, a vedere. Poi tu hai prova a radio? Più o meno seguo G pure tu me, ma cosa stai utilizzando? Sto utilizzando un Petrus Excalibur 2002 K, vedete, con un P300P della Z5, ok, Roger, a te cambio. Antenna, cosa ti trattende? Cavolo, se devo dare una antenna vuol dire che l'hai messa a bassa, non è possibile, se no qua mi saresti dovuto arrivare una bomba. Sai cos'è? Non è che l'antenna sia bassa, l'antenna da tetto sarà quasi circa 4 metri, cappa, non è bassa. Solo io, sai cos'è? Che per Sassari sono un po' nascosto, capito? È zona negativa, non sono aperto per Sassari, io sono aperto zona Calluna, zona, diciamo, Scalzuno, quelle zone lì, capito hai? Ma per Sassari sono nascosto, sono chiuso, capito hai? Se vuoi stare all'altro versante opposto, se sei arrivato in Umbria, se sei arrivato a Santiago, non mi dici anche quando scala quasi, ok, e per quello è, a te cambio. E KK, avanti Marco, e tu come arrivi lì a Osilo? Dunque, vabbè, io chiedo il controllo di radio spesso, ma di segnale meno, non mi ricordo. Allora prova un po', Francesco, fai il favore, questi sono 10 watt utili, vedi un po' com'è? 10 watt utili, qua sta arrivando circa un segnale di 8 oppure una radio di 5, 10 watt utili, a te cambi, vai. Allora se tu liscio arrivi però 6, se tu liscio arrivi Santiago 6, penso che questo smitter sia tirchio, credo che sia abbastanza tirchio per i segnali sotto il 9, perché se no dovresti arrivare, cioè dovrebbe essere una cosa simile, dai, il segnale, grosso modo, capito? Anto, lui è un po' negativo per Sassari, non è nella parte, se fosse sulla parte alta, ciu sarebbe sì, ben oltre il 9, 9,20, 9,30 anche, si attacca. Sicuramente è nella parte un pochettino più negativa, aspetta un attimo, che va un attimino giù, che devo andare un attimino in bagno. Ehi, stavo guardando l'apparecchio, l'Excalibur 2002 lì, come si chiama, bello color oro o bronzo, qua sembra d'ora, tipo doratto, è un bello apparecchio, lo Smith era ventaglio, bello, bella bestia. Infatti le foto su internet sono un po' diverse, in certe foto sembra chiaro chiaro, tipo oro, in certe più scure, tipo bronzo, tendente al color bronzo, quel oro marroncino, non so se è presente. Addirittura esiste color argento, lo sai, lo sto vedendo qua su internet. Ah, però è un po' diverso, non è lo stesso apparecchio. È un po' diverso, dai, non è proprio il modello 2002, ma è uno simile. Aspettiamo che rientri Antonio al limite per i saluti, dai, e poi vado a farmi il caffè. Ho sentito il segnalino 9, chi è avanti? Nulla, non pervenuta. Eccomi qua, vabbè, sto guardando un po' di apparecchi, sì, bello, bello grande, c'è anche la foto del pannello posteriore. Due uscite antenna, ti risulta? Anche lì è così. Stavo cercando di leggere che scheda aveva questo Excalibur 2002. Allora, qua c'è PTBM, potrebbe essere Cybernet questa scheda. Sì, di quelle Cybernet, dai, di solito questi apparecchi hanno o la Cybernet oppure la EPT3006. Si sta abbassando la voce, porca miseria. Antonio, sei rientrato? Allora, questo era bisogno grosso al bagno. Saluto ai colleghi. Ciao Francesco, buona serata, buon tutto, buon proseguimento. E ci sentiamo le prossime, dai, ok? Buona serata, buon tutto. Antonio, se sei all'ascolto, ti saluto e vado a farmi il caffè. Ciao, ciao a tutti. E avanti? C'è qualcuno? E avanti? Ehi Anto, ha chiuso Francesco, dai, io sto andando a farmi il caffè, anzi lo sto già facendo. Ok, e quindi ti saluto, dai, mi stavo guardando un pezzo di YouTube, pezzi di film, così da. Sto aspettando le 9 per accendere la TV, solita storia, tutti i giorni uguali sono le 9. Si mangia, si guarda la TV, ci si corica, un po' di baracchino, si mangia, si guarda la TV, ci si corica, che palle. E così è. Siamo un giovane, non ci siamo mai si barriamo che cosa, no? Non penso che faccia niente, ma... Peccato per l'alternata, che certo la modulazione non la copre assolutamente, però si sente questo brrr. Io mi chiedo quanto siano schermati quegli alimentatori che sono per computer poi. Non lo so, io ho preferito sempre alimentatori proprio specifici per roba radio, radiofrequenza. Che si sente la ventola, si sente anche. No, la ventola non la sento, sento l'alternata, proprio l'alternata. Vabbè, non è forte, forte, però non ci dovrebbe essere. Vabbè, non mi interessa, è importante che funzioni bene poi. Io qua, vabbè, lo lascio acceso come monitor e vado in cucina, poi sento qualcuno. Ho due chiacchiere così, due parolacce, ci scambiamo. Meglio di nulla, bagatolaggio bagato già funziona bene. Quanto? Ah, ragazzo, 21 euro l'aggio bagato. 30 ampere hai detto, 30 ampere 21 euro? Sì. Yeah. Tu conta che un alimentatore Proxel da 30 ampere, sempre roba per apparati radio, costa 70 euro. 65, 69, più la spedizione, mi capito? Però non dà problemi di alternata alcuna, nessun problema, dai. Poi sai, c'è già gli attacchi pronti, hai visto, no? Infili le banane del baracchino, mi spiena l'alimentazione, fatto, non devi fare questi ponticelli, questi morsi, quella morsettiera che c'è dietro, mi, che ho visto nella foto. Ah, ma che già va bene, me la putta assai. Ma cosa cazzo? Oh, lascia perdere, mi ti entrava la bozza di Trento, mi ti entrava chi su Broxer. Qualche anno c'è guastato. Ah, cioè ne hai avuto uno e ti dava rientri, così è? Sì, peggio che mai. Ma lì cosa potrebbe essere? Forse l'antenna troppo vicina all'alimentatore, alla stessa altezza dell'alimentatore, sai, mentre quando è sul tetto, proprio distante, è sulla verticale ed è anche distante, parecchio distante, non, problemi non ne dà, dai. Ok, adesso mi caffeinizzo, se no mi abbiocco subito e poi si vedrà. Ok, per adesso ritieniti salutato. Ciao Antonio, ciao. Ciao, ma era una bucaria, era, lascia perdere. È durato pochi anni anche. Ok, dai, ciao ciao. Strano Antonio, io ne ho due. Uno è, vabbè, da 30 ampere. Con lo strumento anche. Questo invece non ha ventole, non c'ha nulla, c'ha l'interruttore Proxel, 7 ampere, ed è di colore bianco, bianco panna diciamo, dai. Bello, questo non ha ventole, non sento ventoline, ventolone, ronzì della ventola, nulla. C'è il silenzio assoluto, aspetta, chi è che mi messaggia? Vabbè, ciao tu, ciao, dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao Franco. Buonasera Franco. Sei solo? Non c'è nessuno? Sono appena andato in via Marco, no? Non so che nome. Non c'è nessuno, non lo so. Ecco, mi interessava un esperto in Mantova 1, lui la stava smontando e mi serviva la consulenza, se qualcuno l'ha già smontata a pezzi, la parte bassa, deve attaccare il PL. Io non ho, la verità non ne ho mai usato Mantova. Una cosa già la capisco perché le antenne già ne ho avuto. Ciao Fra. Guarda che forse Claudio credo che fosse andato a portare il cane, magari rientra, glielo chiede a lui della Mantova dovrebbe avere dimestichezza. Capo, ciao Marcoli. Sì, praticamente quando ho attaccato la molla oggi mi sono accorto che nella parte dove attacca sul vetroresina, lì c'è la parte che si era attaccato il bulloncino, diciamo. E lì veniva fuori un cavo in rame, sicuramente quello penso che vada direttamente al polo caldo del PL, ma non sono riuscito a smontarla, praticamente ho tolto i riveti per aprirla e sistemarla, invece non sblocca, sicuramente l'ossido è tutto un pezzo con la resina lì. Non te lo so dire, io quelle non le ho mai trattate Fra, quindi... bisognerebbe chiedere chi l'ha avuta, vediamo se entra qualcuno dopo. Io sono in cucina e quindi riprendete pure voi. Vai Anto. Aspetta, ciao Franco, come mi ascolti? Prova? Guarda un po', 1, 2, 3, prova, vai. Vai bene, sei un segnale di 9-10 abbondanti, la radio è diciamo quasi 5, dai, è buona. Ok, dai, ho cambiato antenna, ho messo un'altra antenna, vabbè, la radio funge bene, dai. Però sto decidendo di metterla sul tetto. Anzi, la radio 5, dai, è molto forte, come sempre. Che antenna hai messo? La boomerang con la grande. Tipo quella di, come si chiama, di Gianni, lo profeta? Qua. Bene, no, arrivi bene. Ma dove sei adesso? Qua, a Lima Delta. Ah, ho capito, no, arrivi bene. Mi sa che ascoltavo bene anche prima con quel radiale, no, forse qualcosina l'hai recuperata. Prima non ascoltavo così, tu sei un bel forte. Sarei agganciato. K. Stacca. Questo però l'ho abbassato, questo adesso sto uscendo con 4 watt. Aspetta che c'è un po' di battimento, aspetta. Adesso sono solo 4. Anche tu sei 9-10 abbondante, quasi 15, dai. Sì, e invece hai agganciato, saliva qualcosina? Sul 3 eri. Addirittura, quindi già funziona. Se penso dove questa antenna, è anche troppo. Sì, tra un po' vado a casa, dai. Aspetta che qualcuno mi ha chiesto che zona sono, così. Che zona sei? Sono qui a Sacro Cuore. Ah, ecco perché. Anche tu ti sento molto forte, però sento un po' di alternata sotto. Volevo chiedere, Luca, tu non hai mai smontato una Mantova 1, la parte diciamo dove attacca il PL, la parte interna però è. Luca! Via, dimmi Fra. Ti volevo chiedere se avevi smontato mai una Mantova 1, la parte diciamo dove c'è il PL, quella roba lì, l'attacco. Sì, e beh. Praticamente ho tolto la molla oggi perché era tutto ossidato, è venuto fuori il perno, dentro il foro tra il perno filettato dove attacca la molla e l'affare in vetro resina, lì usciva fuori un cavetto in rame sbucciato, quel filo dove va verso il PL, verso il polo caldo del PL. Allora, ma tu l'hai levato il mozzo proprio? Aspetta, Luca, che me le cagate, sì, è nel polo caldo quello lì. Perché come ho tolto quel pezzo, quel filo è andato a finire dentro, quindi non lo vedo più. Grazie per... Tino, se non sbaglio. Sì, a ciaffa, sì, è quello. Polo caldo, che sarebbe quel filo nero, che è all'interno. Sì, che poi va a finire all'attacco del mollone, alla parte bassa del mollone, e forse lì mette in corto con... E poi con l'antenna credo, vai. Dove l'ho attaccato allo spirale praticamente. Sì, e poi c'è la bobina, l'avvolgimento, lo stesso, che va a finire sempre lì. Anche l'avvolgimento che c'è esterno però, quel filo nero. Meglio. Quindi mi confermi che all'interno c'era un filo che va dal PL, dall'attacco del PL femmina, no maschio diciamo, maschio, e va a finire lì fuori, quindi devo per forza smontarla, se no non riesco a recuperarlo. Poi ci ho provato, ho tolto i riveti, ma no, non molla, né da una parte né dall'altra. Ciao Luca. No, a parte che ti chiamerò a togliere perché sono ossidato ed è un lavoro un po' particolare. A me me l'ha fatto Fabrizio ultimamente, l'abbiamo fatto assieme, praticamente dove c'è l'attacco del DL femmina, non maschio, e parte lì il filo interno e va a finire dove c'è il bulloncino da 10 della molla. E quel PL si può smontare? O è fisso? Ma noi no, se per così è il classico cosa pannello, quindi con 4 VTM mi sembra che sia mantenuto. Adesso non mi ricordo se volevano anche il disegno perché ce l'ho portato in mano, questo me l'ho tenuto proprio come promemoria. Sì, con i VTM, sì. Oppure con i rivetti, vabbè, con il trappo li arrivi e poi li rimetti. Perché faccio passare un filo nuovo, lo saldo e poi chiudo tutto, anche senza smontare tutto, perché non sono riuscito proprio a sbloccarlo, non ho mosso né un millimetro, né nella parte alta né nella parte bassa. Sì, non è così. Scusate che devo smettere. Capa. Poi chi c'è rimasto? Ciao Tino. Volevo chiedere una cosa io a Franco invece, Fra. Dimmi, Marco. Dunque, tu liscio 6-9, siccome qua c'è un apparecchio un po' non complicato, io non riesco a capire con quanti watt sta uscendo. Guarda il segnale com'è, in poche parole. Intorno a 9 o meno. No, qui sei più di 9, sei 9-15 anche tu. Forse anche qualcosa in più, però ripeto, questo strumento non... io l'avevo un po' tarato così la bella meglio perché prima era troppo avaro, non saliva niente, adesso ho messo più o meno la taratura, ma non prenderla con serietà questa lettura. Ciao Marco, scusa. Ciao, sì, tanto ero in cucina, mi sto andando venendo da una camera all'altra, così è tutti i giorni dal resto. Io, vabbè, in teoria, ma non fa testo, no, è una prova che non fa testo, scusa Fra. Perché questo anche se glieli dai, mi hai dai pochi, li dà modulati, no, niente da fare, vabbè, non prevenuta, fregatene. Comunque stai uscendo bene, eh. Io passo, io ti arrivo solo così, sono a Santiago Novo e ti arrivo. Ma tu poco fa eri 9+20, questo è a LED, LCD, non fa testo. Adesso sei 9, prima eri 9+20, probabilmente hai staccato. Sì, prima stavo scaldando un po' il transito, che un po' che non lo usavo, quindi siccome mi è successo un problema l'altro giorno, non so se c'eri, se ci fossi, praticamente è successo qualcosa, mi sono salite le stazionarie, quindi ho staccato tutto veloce e sicuramente c'è da rifare qualche saldatura in qualche spezzone, perché muovendolo ho visto, oppure all'interno dell'accordatore. Anche a me, 6-8 con picchi positivi a 9. Beh, questo apparato l'ho abbassato di potenza per pilotare l'Alfa Lima, Bene. Provo a attaccarlo. Allora, così è agganciato? E i picchi sono positivi o negativi? Ora, 1, 2, 3. Un segnalone, quasi 9-18, però con picchi stabili. Ho trovato un compromesso per non saturare la radio, dai. Ho preferito sacrificare qualche watt dell'apparecchio. Sì, ma infatti. Scusate che forse devo accordare. Ecco qua. Era un po' al limite. No, io lo stesso. Marco, tu mi sembra che ce l'hai preciso, la carra 525, giusto? Sì, me ne sono anche dimenticato, sto usando sempre altri apparati. Dimmi tutto. Sì, no, vabbè, ti volevo dire, ho sacrificato anche io il watt per pilotare l'Alfa Lima come Franco, perché io lo faccio andare con mezzo watt quello, Mezzo watt di pilotaggio addirittura, caspita. Sì, Franco è passato da 9 a 9+20, però ripeto, questo essendo uno Smitter LCD, sto usando il 7009, non il 5005, il 7009. Mi chiedo quanto siano affidabili, cioè non sono affidabili, però l'anima, 4 Santiago mi sarebbe, 5, 10, 15 e 20, un bel. Anche da te a quanto ho capito. tutta la stessa cosa. E tu stai usando il 5005? No, adesso lo sto utilizzando, ma questo è mezzo watt modulato, non so, da qualche cugino in più, comunque mezzo watt, questo attacco, guarda, giusto per farti vedere la differenza. Ecco qua, così è attaccato. Da 8 a 9 e 15, da 8 a 9 e 15. E caspita, quanti watt sono? Sembrano. E quindi, tu dici mezzo watt. E quindi la proporzione c'è, probabilmente per Franco è la stessa cosa, cioè Franco in realtà lo sta pilotando anche a meno di 4 probabilmente, per avere un incremento di 4 Santiaghi e tu lo stesso, adesso ho capito l'inghippo, dai. Aspetta, poi c'era anche un altro problema in frequenza, chi mi ha fatto entrare, Bocanzi? Io ti ho fatto entrare. È il K, riprendi. Ma K, riprendete che ho visto che stavate parlando. Antonio, no, stavamo provando più che altro. E Marco, no, non sono tutti comunque che li trovando, perché poi essendo troppo vicini magari gettava in saturazione, ne ho ancora altri due, ma diciamo che con i picchi positivi vado a finire fisso anche io, ecco, quindi poco cambia il segnale. Devo commutare. Ma ti metto la portante. Ciao Cla. Ciao a tutti, buonasera. Io vi faccio la partita. Pensa anche da parte tua. Cosa fa? Ci si arriva a consulenza per una mantova da parte tua. La mantova? Per me tutti possono dire qualsiasi cosa, tutti possono usare qualsiasi cosa, perché ognuno usa qualsiasi cosa. Per me la mantova è l'antenna migliore al mondo. Basta, non aggiungo altro. No, che stasera la stavo provando a smontare, ho tolto i riveti ma non sono riuscita a separarla dalla parte in vetroresina, né la parte bassa né la parte alta. Voglio sapere se dal polo caldo del PL, del PL che c'è sulla mantova, parte un filo che va fino a quel foro nella vetroresina dove poi attacca il mollone? Si conferma. Praticamente mi è visto che è andato dentro e non lo vedo più. Se riesco a mollare il PL, da lì dove arrivarci, giusto? Mollando anche il PL. Mollando il bocchettone del PL, non lo so, perché li fanno talmente precisi che è un casino. Chi non ce ne sa qualcosa? Glielo ho spiegato, Claudio, glielo ho spiegato, che l'abbiamo fatto con Fabrizio ultimamente, è uscita una canoata, ma è preciso, quindi non è che... Poi addirittura gli ho cambiato anche il palo, perché quello che tu vedi, quel pezzo in vetroresina, non è un pezzettino, tieni conto che mi sembra che siano intorno ai 40 centimetri. Sì, ho visto, a una parte vedo che c'è un foro più piccolo, invece la parte superiore verso l'antenna c'è un foro più grande, largo diciamo 3-4 centimetri, così a occhio è. Però tutto il pezzo di cosa è 40 centimetri se non sbaglio. Ma davvero che è stata una fortuna che l'ho avuto lì ed era proprio per fare questi lavori con la mantova. Cioè hai trovato il pezzo di vetroresina nuovo, hai trovato? Sì, comprato apposta per quello. E dove? Da internet? Non l'ho comprato io, l'ha comprato Luca non so dove, me l'ha lavorato a me e ce l'avevo qua in casa, ha detto ma mi sembra che sia la sua, quando praticamente mi è successo il fattaccio della mia antenna che praticamente si è troncata proprio la vetroresina, quindi si è abbassata a 45 gradi l'antenna, l'abbiamo comprata con Fabrizio ed era con la misura lì ed era quello, perfetto, comunque ha cambiato radio. No, questo è che io cambio radio, questo è tutto, e da stamattina sto usando questa qua, adesso vado un poco 140, questa la teniamo sotto controllo, ecco qua, sono qua, hai capito qua? Sì, e poi quel perno come l'hai attaccato? Il perno che non so se sia filettato nel vetroresina, perché non c'è un controllato da parte in dentro, no? Sì, è quello il brutto, perché è un bolloncino che è controllato. Perché questo ne è uscito senza niente, pensavo che fosse appoggiato così, cioè avvitato e basta, non ho visto nessun controllato, o male si è marcito, capito? È probabile. È un peccato, dai. E poi ci sono da rifare tutti i fori dove c'erano i radiali, che lì ci sono tutti marciti, anche lì le parti, no, la parte ottone, tutto da ricostruire lì. Gu. Oh, dimmi. Allora, è cambiato radio, siamo all'840. Allora, praticamente a me è successo una cosa. Ho fatto tutto il lavoro a regola d'arte, spirale tutta nuova, bella tirata, tutto. Mi sono saldato dove c'è il rivetto, ho tolto il rivetto, ho messo tutto nuovo, l'occhiello, tutto rifatto. Scendo la parte del PL, saldato, perlomeno, io l'ho saldato bene, tutto a posto, lucidato il piantone, vado a montarla, l'antenna in corto. L'antenna in corto, tutto l'ha rifatto. Ce l'ho ancora sui mansarda, appena ne ho voglia lo riapro perché è un lavoraccio, è un lavoraccio. Appena ne ho voglia me lo metto sul tavolo la mansarda, la riapro, che mi rompe un bel balle perché guarda, è uscita nuova, proprio lucida, la volevo regalare a Gianni più lungo. E invece l'abbiamo piazzata in corto, capito? In corto, mille di stazionali. O si è staccato di nuovo il cavo, come ho stretto il bocchettone del PL, o qualcosa è successo, non lo so. Comunque perfetto, perché ho provato il test prima di portarla via, e invece devo aver fatto qualche danno montandola. Avanti, ti. Ma è un casotto, ce l'ha comprato il diciamo che ci siamo riusciti tramite come si chiamano quelle caramitte lunghe che usano i meccanici, dai, con le fine lunghe tipo cacciavite, però è una spirale, una cosa del genere, a beccare il bulloncino e entrarlo nel foro, e ce l'abbiamo fatta, dai. È una bella soddisfazione quando lo rimetti a posto è come nuovo, quindi va alla grande. Ho fatto questa regola d'arte. Io quando l'ho spostata dall'autostrada all'interno, dove ce l'ho adesso, perché adesso ce l'ho all'interno, no? Adesso non ho ancora finito perché la mia mantova va sopra dove c'era il sistema delle direttive, quindi andrà a salire 8 metri. Ho già il bike pronto, devo finire il lavoro perché la mantova va lì. Adesso c'è l'antenna piccolina, devo togliere quella e montare perché i pali sono molto robusti, sta fatta bene, eccetera. Adesso è provvisorio, devo montarla ancora più in alto, devo finirla. E prima di quando l'ho spostata ti stavo dicendo, l'ho tutta smontata, tutta pulita, staccato quell'occhiello, rimesso nuovo, tutto, spirale nuova, l'ho fatta nuova, lei mi ha chiamato, zero di stazionare, dall'1 alla camera 80, non si muove nulla, neanche con l'amplificatore grande, mi figurati, niente. Perciò è una soddisfazione perché funzionano sempre. Cazzo, quella non riesco a capire cosa è successo. Siamo andati a montarla, 3 di stazionari e c'è no, 3. Correggevo la spirale e abbassavano un pochino, però non scendevano più di 2. Deve essere successo qualcosa di nuovo. Devo riaprirla e rimetterla a posto, capito? Vai Marco, c'è più Marco. Poi andava in cucina. Allora credo che la mantova lavori in corto, quindi non penso che sia normale che tu misurandola ti dia il corto. No, misurandola non mi dava niente, il corto me l'ha dato dopo, non l'abbiamo montata. Perché guardandola, cioè, come l'ho smontata io, il filo che veniva diciamo dall'interno, dal palo caldo del bocchettone, praticamente va in contatto con la spirale, e la spirale è collegata a quella bobina a avvolgimento che è collegata a massa, quindi è normale che sia in corto, però non è normale che non riesca a accordarla. Non accorda, assolutamente, infatti ti ripeto, devo riaprirla tutta, adesso ci siamo dedicati a smontare tutte le direttive, quindi domani mattina parte, domani mattina corriere, non so a che ora, comunque parte, devo sentire Luca domani mattina, infatti è qua perché ho sceso laggiù, figurati, manco nell'ascensore ci stava, già tutta imballata, ho comprato un rotolo che abbiamo un terno di cartone, ho tutta rotolata col cartone, 4 rotoli di nastro di quello per parti, quindi è diventato tutto marrone, il cartone è tutta una strada completamente, poi una vara e domani mattina a parte, quindi mi sono dedicato a fare quel lavoro, adesso che ho finito quel lavoro mi dedico a quell'antenna lì e poi mi dedico a spostarmi la mantova nel punto più alto del palazzo, capito? Praticamente non del palazzo ma la qualificazione più alta che è quella dove c'erano le direttive, tutto lì. Vai, un attimo, sono qua. Ia. Antonio, riprendi. Ero cuccato, vero, dimmi. Riprendi. Scappa, ma c'è un'antenna che ti è andata male. Mi ha fatto gigo questo cazzo di Rudy, mamma mia. Non ce n'è roba, va male qua. Ormai con un altro fa di scorta, che praticamente mi avevano regalato un piantone. L'ho tutto sistemato, ma c'era il filo attaccato, l'ho tutto riassemblato, ho messo la spirale nuova, tutto, però non funziona, devo aprirla per vedere cosa è successo. Poi c'è un'altra mantova, che è quella che aveva già nel doppio rumo che mi ha regalato a me, quella gli ho fatto i bocchettoni nuovi dei radiali, gli ho messo i radiali nuovi in fibra, e l'ho messo in campagna, capito? Tutto qua, niente, devo vedere quella lì, capito? Devo vedere quella. Io ho cambiato radio, non so se ve ne siete accorti, forse questa è, vabbè, sempre uguale, c'è la mia modulazione, non cambia niente. Oh oui, sono tutte lì, guarda, cambia pochissimo, un po' il segnale a volte, ma poca roba, la radio è sempre forte. E i bocchettoni, quelli dei radiali, come li hai costruiti? In alluminio o qualcos'altro? Un po' latte, c'era l'alluminio praticamente che si era allargato con l'usura e quindi il radiale gioccava all'interno. Allora che cosa ho preso? Ho preso una verga da un metro di alluminio del diametro che entrasse dentro il bocchettone, no? Dove sono i 5 e i 4 radiali, perché c'era un tovo 1, uguale, entrati a pressione, non col martellino di plastica, bene entrati a pressione, e poi è entrato dentro il radiale e messo la vite autofilettante sotto per bloccare, che blocca praticamente, c'è il foro e va direttamente a bloccare il radiale. Uscita nuova, ed è perfetta, c'ha zero stazionaria anche quella, perfetta, mentre l'altro piantone è andato a farsi fare il culo. Ma da me molte, cioè, mi mancano proprio i bocchettoni sul vetroresina, mancano quelli in ottone, c'è rimasto il filo di rame che sicuramente è spiralato all'interno della vetroresina, si vede solo il filo di rame, quindi io dovrei costruire anche quelle bocchette lì, prima sul radiale. No, praticamente c'è i radiali che non, scusa Antonio, c'è i radiali che non vanno bene, oppure il bocchettone, quello in alluminio dell'antenna, i bocchettoni che mantengono i radiali? Praticamente i radiali prima avevano il terminale in ottone, dai, entravano dentro l'alluminio e ve lo stringevi col bulloncino da, non so, da 10, da quanto sia, forse anche più piccolo. Ecco, praticamente è rimasto il bocchettone in ottone, è rimasto all'interno della mantova, quindi quello vanno tolti e rifatti sui radiali, rifatti perché ci sono marciti, capito? Buttare via quei radiali in vetroresina, ti prendi le verghe di alluminio, dello stesso diametro del collettore dell'antenna, li entri dentro, ci sono anche i cappuccetti per chiudere poi i radiali in alluminio, diventa tipo una mantova turbo, e vanno bene, li prendi da 1,10 m e li monti. Vanno benissimo, io li ho tenuti per anni, poi i corvi, c'è le cornacchie e i piccioni me li rompevano. Allora ho recuperato un'altra mantova vecchia da buttare via proprio, però c'aveva i radiali nuovi, li ho tutti tolti, puliti, gli ho dato un prodotto per non sfilacciarsi la vetroresina e ho messo quelli.